and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Carmelo Lauricella e da Franco Piantanida. Oh. Caro Franco, allora, caro oggi... Carmelo, allora oggi parliamo di colonie. Colonie. Perché sai, penali. Bambino Alberto sarebbe contento di sapere che la scorsa settimana a Cervia, sulla costiera romagnola, una colonia intera di bambini bergamaschi, ma c'erano anche delle bergafemmine, è stata vittima di una brutta intossicazione alimentare. Mi sa anche tu con le battute che fai. Comunque, mamme, non mandate i vostri bambini in colonia, ma davvero vi fidate di quel che gli danno da mangiare? Ma non dire così, che poi qualcuno si lamenta, qualcuno delle colonie. Mamme, davvero pensate che ci sia alimento degno di rivaleggiare con quello che scaturisce dalle vostre sante mani di mamma italiana? Senz'altro il cibo migliore è quello di mamma, però quando si è in giro lontani da casa non si può fare diversamente. Borse termiche, andare... siberini, imballaggi sottovuoto. Ci sono tanti metodi. Ma che siberini sottovuoto? In tutto il mondo, esistono quelli che fanno da mangiare per gli altri, anche per strada. Sì. Dall'India a Palermo, dalla Germania all'Australia, fanno le loro belle specialità ai bordi di strade dove passano le automobili, c'è polvere, sporcizie, eppure continuiamo a comprare il panino con la salsiccia o la porchetta o la milza in Sicilia, no? Nessuno è mai morto. È morto. Ma lo dici tu, cosa ne sai? Vabbè, il caso di Cervia coinvolge decine e decine di bambini, tutti avvelenati, si pensa, da una frittata. Una frittata. Sì, si attendono altri riscontri, ma il colpevole sembra essere una frittata. Ora è in stato di fermo. Ma cosa? La frittata? Sì, perché potrebbe inquinare le prove, dopo aver inquinato l'intestino di decine di poveri bambini, quindi nasce... E poi cosa fanno? E poi i legali della frittata per ora aspettano le controanalisi, ma hanno comunque una strategia, e cioè quella di rovesciare l'impianto accusatorio sul Bacillus cereus, che sarebbe la vera causa dell'intossicazione. Esatto. Niente a che vedere, Drago, con il batterio E. coli, quello dei germogli tedeschi, ti ricordi? Però non si esclude niente. La riviera romagnola è notoriamente invasa ogni estate da germogli tedeschi in cerca di gratificazione germogli sessuale. Germogli tedesche, sì, anche. E certe promiscuità sconvenienti sono all'ordine del giorno. Perché mi guardi? La frittatina, con la farina sarebbe una crepe. La frittatina, se transalpina diventa un omelette. La nuova frontiera della tolleranza zero si è raggiunta a Harvard. A Harvard. A Harvard. Aha. Ricordi il gruppo, gli Aha? Gli Aha venivano da Harvard. Take on me. Take on me. Take me. È morto. Che poi gli Aha erano finlandesi, norvegesi. C'entrano con Harvard, che invece è notoriamente in Inghilterra. No, vabbè, è in America, ma allora Harvard. Lì allora hanno fatto questa cosa, un gruppo di ricercatori ha fatto uno studio a metà tra l'economia e la medicina ed è arrivato alla conclusione che i bambini obesi... Ma ce l'hai questa roba? Vabbè, così, in futuro dovranno essere tolti alle loro famiglie in modo da poter dimagrire sul serio. Solo così i costi della sanità potranno tornare a livelli accettabili. Questa è la teoria di... Tolti alle famiglie in che senso? Nel senso che funzionerà tutto un network tra le scuole, gli ospedali, gli assistenti sociali e la magistratura. Se un bambino grasso continua ad essere grasso, o peggio ancora, ingrassa sempre più, la scuola avverte l'ospedale, che avverte l'assistente sociale, che avverte il giudice, che ordina di togliere il bambino alla famiglia d'origine. Molto semplice, tutto funziona bene. Ma che idea è? Sembra una di quelle robe sgangherate degli utopisti di 200 anni fa, ma come può funzionare? E invece, guarda, l'auspicio degli studiosi di Harvard è che l'obesità venga considerata per legge alla stessa stregua di un abuso sui minori. Ma... quindi si toglie in questo modo la custodia dei propri figli quando si è dimostrata la loro incapacità ad affrontare la situazione dell'obesità. Ma quale situazione? L'obesità. Ma sono teorie naziste. Ma non è una vergogna. Abbasso Harvard. Ma non devi Abbasso! Scaldarti. Ma non sei manco obeso, quindi infatti, non ho capito. Ho un po' di pancetta però. Mi sento discriminato. come tutti quelli che come me hanno la pancetta. Vabbè, anche ma tu. Ce l'ho anch'io la pancetta, non è quello il problema. Non ti senti l'obesità. Discriminato? Ma sì, un po'. Io sì, vorrei però. Dire ai signori di Harvard che bisognerebbe applicare la stessa teoria per quelli troppo magri. Ma vediamo un po'. Non si è mai troppo magri, ma capo. No? Questo è quello che passa, il guarda, messaggio. Se no? I professori vedono una ragazzina troppo magra, zac, sequestro di persona, reclusione in un centro di nutrizione forzata, sai, come i polli, come le altre. No, vabbè, magari ti fa mangiare la Nutella obbligatoriamente, quindi ci voglio andare anch'io. Scusa, c'è sempre ipocrisia su queste cose. Se uno è grasso, si vede e c'è poco da fare. È grasso. Se invece una ragazzina timida, insignificante e denutrita, si traveste, si imbottisce di maglioni, di giacche, così nessuno la nota. Quello però è denutrita. Allora, è meglio la famiglia che non nutre i figli o quella che li nutre troppo? Vabbè, parliamone, giriamola così. È più facile non dare da mangiare a un bambino che ha sempre fame o far mangiare un bambino che non ha mai fame? Allora, l'importante è la consapevolezza. Giusto. Una dieta consapevole è alla base della felicità. Il tuo bambino cresce rapidamente. Ecco qualche consiglio per aiutarlo a crescere molto meno rapidamente. Il delicato momento della pappa. La prima pappa, all'inizio, è solo una sequenza di... Il tuo bambino per mesi si è nutrito esclusivamente di erba. Poi, d'improvviso, tutto cambia. Ed è il momento giusto per conoscere nuovi sapori. Ad esempio, pesticidi dannosi e tutti i prodotti chimici pericolosi. Così lo abitui fin da piccolo al sapore del pesce, cioè di un alimento importante, ricco di sostanze chimiche e bilische. E se rifiuta qualcosa, gliela riproporrai di formato sempre più grande e di consistenza sempre maggiore. Così puoi stare tranquilla per il futuro di tuo figlio in un mondo più problematico. Rimanendo in tema grasso magro, la cosa delle taglie ti ha colpito? Ma quale cosa delle taglie? Sì, dai, è uscito questo articolo su Repubblica in cui, pur non avendo alcun dato ufficiale e preciso in mano, questa giornalista annunciava che le taglie dei vestiti non sono più quelle di una volta. Come le stagioni. Di stagione in stagione le taglie si sono allargate, no? Vabbè, ma cosa vuol dire? Vuol dire che una 42 di oggi era una 44 nel 1973, diciamo così. E così tutte le altre. Cioè, misurando col centimetro, si può verificare facilmente che per vendere di più si è fatto credere a tutti noi che stavamo dimagrendo. In realtà erano i vestiti che si stavano allargando. E ora, bambini, e tutti a casa. Drago. Oh. Ma scusa, non è come un déjà vu? Ma di nuovo. Ma non è un déjà vu, è che siamo a fine luglio e quindi è tutta un'illusione. In realtà anche la tangenziale è andata in vacanza. Queste macchine che passano sono passate mesi fa, ma continuano a passare, una specie di loop, capito? E noi invece no, noi siamo in diretta, capito? Ma basta saperlo. Non è facile, però uno può anche capire. Si mette, cioè, quindi dice, queste macchine non sono vere. Su questo non sono disposto nemmeno a mettere la mano sul fuoco, perché poi alla fine. Cioè, sono le repliche. Potrebbero essere le repliche di macchine passate mesi fa, no? Quindi, come dici tu, un loop. E quindi, scusa, alla fine possiamo attraversare senza farci male. Ecco, però io non rischierei, insomma. Ma scusa, se il tuo ragionamento è valido. No, ma vedi, questo camion qua è già passato prima. Ma te l'ho detto. Ma quindi non è un camion vero. Però sembra di sì, no? Sembra un camion. Non si capisce, però. Io non capisco manco io, però non rischierei di finire arrotato, cosa dici, no? Poi alla fine che fretta abbiamo, scusa, è tutta una replica, no? Sì, però insomma. Però cosa? Tra tutte le repliche che ci sono in corso in questo momento, noi dobbiamo per forza assistere alla replica della tangenziale intasata, cioè. In effetti, la replica, che ne so, di quella cena con quella ragazza infatti, 25 anni fa. La tangenziale, dai, spegni. Oh, che pace, Niente. Ma scusa, ma anche gli uccellini adesso sono repliche, anche sì, queste. Sì, certo. Però è triste, scusa. Vabbè, ma siamo quasi ad agosto, di che ti lamenti? Sei sicuro che questa non sia una replica? Non è questa, il quiz della settimana. Chiedo asilo a tradio24.it. Soprattutto non è una canzone, non importa. Sono strumentale.